Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Addio alle armi di Ernest Hemingway. Traduzione di Fernanda Pivano. Scesi dal treno a Milano mentre rallentava per entrare in stazione il mattino presto prima che fosse chiaro. Attraversai il binario e sboccai tra le case e scesi nella strada. C'era una bottiglieria aperta ed entrai a prendere un caffè. Odorava di primo mattino, di polvere spazzata, di cucchiai nei bicchieri del caffè e di cerchi bagnati lasciati dai bicchieri di vino. Il padrone era dietro il bar. Due soldati erano seduti a un tavolo. Mi fermai in piedi al bar e bevi un bicchiere di caffè e mangiai un pezzo di pane. Il caffè era grigio di latte e scostai la crema del latte con un pezzo di pane. Il proprietario mi guardò. «Vuoi un po' di grappa?» «No, grazie. Offro io», disse, e versò un bicchierino e lo spinse verso di me. «Cosa succede al fronte?» «Non saprei». «Sono ubriachi», disse indicando con la mano i due soldati. Potevo credergli, ne avevano l'aria. «Dimmi», disse, «che cosa succede al fronte?» «Non so niente del fronte. Ti ho visto scendere dal muro, sei sceso dal treno. C'è una grande ritirata. Ho letto i giornali. Come va? È finita?» «Non credo». Riempii il bicchiere di grappa, versandola da una bottiglia bassa. «Se sei nei guai», disse, «posso tenerti qui». «Non sono nei guai. Se sei nei guai, rimani qui con me». «Ma dove si rimane?» «In casa. Ce ne stanno molti, tutti quelli che sono nei guai». «Ce ne sono molti nei guai?» «Dipende dai guai. Sei un sudamericano?» «No». «Parli spagnolo?» «Un po'». Ripulì il banco. «Ora è difficile lasciare il paese, ma non è impossibile. Non ho intenzione di andarmene. Puoi stare qui finché vuoi. Vedrai che uomo sono. Stamani devo andare, ma ricorderò l'indirizzo per ritornare». Scosse la testa. «Non ritornerai se parli a quel modo. Credevo che tu fossi in veri guai». «Non sono nei guai, ma so valutare l'indirizzo di un amico». Misi un biglietto da 10 lire sul banco per il caffè. «Prendi una grappa con me», dissi. «Non è necessario. Prendila». Versò 2 bicchieri. «Ricorda», disse, «vieni qui. Non lasciarti prendere da altra gente. Qui sei al sicuro». «Ne sono certo». «Ne sei certo?» «Sì». Era molto serio. «Allora lascia che ti dica una cosa. Non andare in giro con quella giubba». «Perché?» «Si vede benissimo sulle maniche dove c'erano le stellette. La stoffa è di un altro colore». Non dissi niente. «Se non hai i documenti te ne posso dare io». «Che documenti?» «Una licenza». «Non ho bisogno di documenti. Ho i documenti». «Va bene», disse. «Ma se hai bisogno di documenti, posso procurarti quello che vuoi». «Quanto costano questi documenti?» «Dipende da che documenti sono. Il prezzo è ragionevole». «Non ne ho bisogno adesso». Si strinse nelle spalle. «Sono a posto», dissi. «Quando uscì», disse, «non dimenticare questo indirizzo». «No». «Arrivederci», disse. «Bene», dissi. Mi tenni alla larga dalla stazione dove c'era la polizia militare e presi una vettura all'estremità del giardino pubblico. Diedi al vetturino l'indirizzo dell'ospedale. All'ospedale andai in portineria. La portinaia mi abbracciò. Suo marito mi strinse la mano. «È ritornato? È salvo?» «Sì». «Ha fatto colazione?» «Sì». «Come sta, tenente? Come sta?» chiese la moglie. «Bene». «Non vuole fare colazione con noi?» «No, grazie. Senti, Miss Barclay è qui all'ospedale?» «Miss Barclay, l'infermiera inglese, la sua ragazza», disse la moglie. Mi diede un colpetto sul braccio e sorrise. «No», disse il portiere, «è andata via». Mi cadde il cuore. «Sei sicuro? Voglio dire, quella signorina alta, bionda». «Sono sicurissimo, è andata a Stresa». «Quando è andata?» «È andata 2 giorni fa con l'altra signora inglese». «Bene», dissi, «devo chiedervi una cosa. Non dite a nessuno che mi avete visto, è molto importante». «Non lo dirò a nessuno», disse il portiere. Gli diedi un biglietto da 10 lire. Lo rispinse. «Prometto che non lo dirò a nessuno», disse. «Non voglio denaro». «Cosa possiamo fare per lei, signor tenente?» chiese la moglie. «Soltanto questo», disse. «Siamo muti», disse il portiere. «Mi faccia sapere se possiamo fare qualcosa». «Sì», disse. «Arrivederci, ritornerò». Rimasero sulla porta a guardarmi. Risalii nella vettura e diedi al vetturino l'indirizzo di Simmons, uno dei miei conoscenti che studiava canto. Simmons abitava molto fuori mano, verso Porta Magenta. Ero ancora a letto e sonnacchioso quando andai a trovarlo. «Ti alzi spaventosamente presto, Henry», disse. «Sono arrivato col treno del mattino. Che cos'è questa storia della ritirata? Eri al fronte. Vuoi una sigaretta? Sono in quella scatola sul tavolo». Era una grande stanza con letto contro la parete, un piano all'altra estremità e un cassettone e una tavola. Sedetti sulla seggiola accanto al letto. Simmons sedette appoggiato sui cuscini e si mise a fumare. «Sono in un pasticcio, Sim», dissi. «Anch'io», disse. «Sono sempre in un pasticcio». «Non fumi?» «No», dissi. «Come si fa per andare in Svizzera?» «Tu?» «Gli italiani non ti lasceranno uscire dal paese». «Sì, lo so. Ma gli svizzeri che cosa farebbero?» «Ti mettono in un campo di internamento». «Lo so. Ma qual è il meccanismo?» «Niente, è molto semplice. Puoi andare dove vuoi. Credo che tu debba solo presentarti o qualcosa del genere, perché devi scappare». «Niente di preciso ancora. Non dirmelo se non vuoi, ma sarebbe interessante da sentire. Non succede mai niente qui. Ho fatto un gran fiasco a Piacenza». «Mi dispiace tanto». «Oh sì, è andata molto male. Ho anche cantato bene. Tenterò di nuovo qui, al Lirico. Mi piacerebbe sentirti. Sei molto gentile. Non sei mica in un guaio serio, vero?» «Non lo so. Non dirmelo se non vuoi. Come mai non sei tu su quel maledetto fronte?» «Credo che sia finita col fronte». «Bravo ragazzo. Ho sempre saputo che hai del buon senso. Posso aiutarti in qualche modo?» «Hai tanto da fare. Neanche per sogno, caro Henry. Neanche per sogno sarei felice di fare qualcosa». «Siamo pressappoco della stessa statura. Vuoi uscire a comprarmi dei vestiti borghesi? Ho molti vestiti, ma sono tutti a Roma». «Abitavi là, vero? È un posto schifoso. Come hai fatto a viverci?» «Volevo diventare architetto». «Non è un luogo adatto. Non comprare vestiti. Ti do tutti i vestiti che vuoi. Ti sistemo in un modo che avrai un gran successo. Vai in quello spogliatoio. C'è un armadio. Prendi tutto quello che vuoi. Caro mio, non hai bisogno di comprare vestiti». «Preferirei comprarli, Sim». «Caro mio, per me è più facile regalarteli che uscire a comprarteli. Hai il passaporto? Non andrai lontano senza il passaporto». «Sì, ho ancora il mio passaporto». «Allora vestiti, caro mio, e via nella vecchia Elvezia». «Non è così semplice. Prima devo andare a Stresa». «L'ideale, caro mio. Non hai che da attraversare a remi. Se non cercassi di cantare, verrei con te. Potresti incominciare a fare lo yodel». «Caro mio, credo proprio che dovrò cominciare, ma so davvero cantare. Questa è la parte più buffa. Credo bene che sai cantare». Si distese sul letto fumando una sigaretta. Con gli abiti borghesi mi sentii in maschera. Da troppo tempo ero in uniforme e avevo perso la sensazione della presa dei vestiti. Mi sentivo cadere i calzoni. Avevo comprato a Milano un biglietto per Stresa. Avevo comprato anche un cappello nuovo. Il cappello di Sim non mi andava bene, ma il vestito era bello. Odorava di tabacco e nello scompartimento, mentre guardavo dal finestrino, il cappello nuovo era molto nuovo e il vestito molto vecchio. Quanto a me ero triste quanto la campagna lombarda bagnata che si vedeva fuori attraverso il finestrino. Nello scompartimento c'era qualche aviatore che non si preoccupava molto di me. Evitavano di guardarmi e mostravano molto disprezzo per uno in borghese alla mia età. Non mi sentii insultato. In passato le avrei insultate e incominciato una lite. Scesero a Gallarate e fui lieto di restare solo. Avevo il giornale ma non lo leggevo perché non volevo leggere cose sulla guerra. Stavo andando a dimenticare la guerra. Avevo fatto una pace separata. Mi sentivo maledettamente solo e fui lieto quando il treno arrivò a Stresa. Mi aspettavo di trovare alla stazione i fattorini degli alberghi, ma non c'era nessuno. La stagione era finita da molto e nessuno era venuto al treno. Scesi dal treno con la mia valigia, che era la valigia di Sim, e molto leggera da portare perché era vuota tranne per due camicie, e mi fermai sotto il tetto della stazione nella pioggia mentre il treno ripartiva. Incontrai un uomo nella stazione e gli chiesi se sapeva quali alberghi fossero aperti. Il Grand Hotel era aperto e parecchi albergucci che stavano aperti tutto l'anno. Mi avviai nella pioggia verso l'albergo, portando la valigia. Vidi una carrozza che scendeva la strada e feci segno al vetturino. Era meglio arrivare in carrozza. Entrammo nel viale del grande albergo e il portiere uscì con l'ombrello e fu molto gentile. Presi una buona stanza. Era molto grande e chiara e guardava sul lago. Le nuvole erano scese sul lago, ma doveva essere bello col sole. Aspettavo mia moglie, dissi. C'era un gran letto doppio, un letto matrimoniale con una coperta di satin. L'albergo era molto lussuoso. Attraversai i lunghi corridoi, le larghe scale, i saloni fino al bar. Conoscevo il barman, ma sedetti su uno sgabello e mangiai mandorle e patatine fritte. Il martini era fresco e pulito. «Cosa fa qui in Borghese?» chiese il barman dopo avermi mescolato un secondo martini. «Sono in licenza». «Licenza di convalescenza. Qui non c'è nessuno, non so perché tengano l'albergo aperto. Sei stato a pescare?» Ho preso qualche bel pesce. Andando in giro in questa stagione si prende qualche bel pesce. Hai ricevuto il tabacco che ti ho mandato? Sì. E lei ha ricevuto la mia cartolina? Mi misi a ridere. Non ero riuscito a procurarmi il tabacco. Voleva tabacco da pipa americano, ma i miei parenti avevano smesso di spedirne, oppure l'avevano fermato. Comunque, non arrivo mai. Me ne procurerò un po' da qualche parte, dissi. Dimmi, hai visto due ragazzi inglesi in città? Sono arrivati l'altro ieri. Non sono in albergo, sono infermiere. Ho visto due infermieri, aspetti un momento, le saprò dire dove sono. Una è mia moglie, dissi. Sono venuto qui per incontrarla. L'altra è la mia. Non scherzo, scusi il mio scherzo stupido, disse. Non avevo capito. Se ne andò e rimase via un bel pezzo. Mangiai olive, mandorle salate e chips e mi guardai vestito in borghese nello specchio dietro il bar. Il barman ritornò. «Sono nell'alberghetto vicino alla stazione», disse. Catherine ed Helen Ferguson stavano cenando quando arrivai al loro albergo. In piedi nell'atrio le vidi a tavola. La faccia di Catherine era rivolta dall'altra parte e vidi la linea dei suoi capelli e della guancia e il bel collo e le spalle. La Ferguson stava parlando. Si interruppe quando entrai. «Dio mio!» disse. «Allo!» dissi. «Ma sei tu?» disse Catherine. Le si illuminò il viso. Era troppo felice per crederlo. La baciai. Catherine arrossì e sedette a tavola. «Sei un bel guaio!» disse la Ferguson. «Cosa stai a fare qui?» «Hai mangiato?» «No», entrò la ragazza che serviva e le dissi di portare un piatto anche per me. Catherine continuava a guardarmi con gli occhi felici. «Che cosa fai in borghese?» chiese la Ferguson. «Sono entrato nel gabinetto del ministro. Sei in qualche guaio?» «Allegra, Fergie. Stai allegra un momento. Non mi rallegra affatto vederti. So il guaio in cui hai messo questa ragazza. Non sei uno spettacolo allegro per me». Catherine sorrise e mi toccò col piede sotto il tavolo. «Nessuno mi ha messo in un guaio, Fergie. I guai me li trovo da me». «Non lo posso soffrire», disse la Ferguson. «Non ha fatto altro che rovinarti con i suoi trucchi da italiano subdolo. Gli americani sono peggio degli italiani». «Gli scozzesi sono gente talmente morale», disse Catherine. «Non voglio dire questo, voglio dire quel suo essere subdolo come gli italiani». «Sono subdolo, Fergie?» «Sì che lo sei, sei peggio che subdolo. Sei come un serpente in uniforme italiana». Con una mantellina intorno al collo. Non ho un'uniforme italiana adesso. Non è che un altro esempio del fatto che sei subdolo. Hai avuto una storia d'amore tutta l'estate e hai reso madre la ragazza e ora immagino che te ne sguscerai via. Sorrisi a Catherine e lei mi sorrise. Sgusceremo via tutti e due, dissi. Siete tali e quali, disse la Ferguson. Mi vergogno di te, Catherine Berkeley. Non hai pudore e non hai onore e sei subdola come lui. «No, Fergie», disse Catherine accarezzandole la mano, «non accusarmi. Lo sai che ci vogliamo bene. Togli quella mano», disse la Ferguson. Era diventata rossa in faccia. «Se tu avessi un po' di vergogna sarebbe diverso. Ma sei lì con quel bambino da Dio sa quanti mesi, credi che sia uno scherzo e sei tutta un sorriso perché il tuo seduttore è ritornato. Non hai vergogna e non hai sentimento. Incominciò a piangere. Catherine si alzò e la cinse col braccio. Mentre era in piedi a consolare la Ferguson, vidi che il suo corpo non era mutato. «Oh, basta!» singhiozzò la Ferguson. «È terribile!» «Su, su, Fergi!» la confortò Catherine. «Avrò vergogna!» «Non piangere, Fergi, non piangere, vecchio Fergi!» «Non sto piangendo!» singhiozzò la Ferguson. «Non piango! È solo questa situazione terribile in cui ti ha cacciata!» Mi guardò. «Ti odio!» disse. «Non puoi impedirmi di odiarti, sporco italiano, americano, subdolo!» Aveva gli occhi e il naso rossi di pianto. Catherine mi sorrise. «Non sorridergli mentre mi tocchi!» «Sei irragionevole, Fergi!» «Lo so!» singhiozzò la Ferguson. «Non dovete badare a me, nessuno dei due. Sono così sconvolta, non sono ragionevole, lo so. Vorrei che foste felici.» «Siamo felici», disse Catherine. «Sei un tesoro di Fergi.» La Ferguson ricominciò a piangere. «Non voglio che siate felici a questo modo. Perché non vi sposate? Non hai un'altra moglie, vero?» «No», dissi. Catherine rise. «Non c'è niente da ridere», disse la Ferguson. «Un mucchio di loro hanno altre mogli.» «Ci sposeremo, Fergi», disse Catherine, «se questo ti fa piacere.» «Non per far piacere a me. Dovresti volerlo tu. Abbiamo avuto tanto da fare.» «Sì, lo so, far bambini.» Pensai che avrebbe ricominciato a piangere, ma invece divenne amara. «Immagino che stasera andrai con lui.» «Sì», disse Catherine, «se lui mi vuole.» «E io? Hai paura a restare qui da sola?» «Sì, ho paura.» «Allora resto con te.» «No, no, va con lui. Vattene via con lui, non ne posso più di vedervi.» «È meglio che finiamo di cenare.» «No, andate via subito, Fergi.» «Sì, ragionevole. Vi dico di andare via subito. Via tutti e due.» «Allora andiamo», dissi. Non ne potevo più di Fergi. «Volete andarvene? Vedete che volete perfino lasciarmi qui a mangiare da sola. Ho sempre desiderato andare sui laghi italiani. Ed ecco com'è andata.» Singhiozzò, poi guardò Catherine e soffocò. «Ci fermeremo fin dopo cena», disse Catherine, «e non ti lascerò sola se vuoi che rimanga. Non ti lascerò sola, Fergi.» «No, no, voglio che tu vada, voglio che tu vada.» Si asciugò gli occhi. «Sono così irragionevole, per favore non badate a me.» La ragazza che serviva il pranzo era stata sconvolta da tutto quel piangere. Ora, mentre portava il piatto successivo, parve sollevata nel vedere che le cose andavano meglio. Quella notte, all'albergo, nella nostra stanza, col lungo corridoio deserto fuori e le nostre scarpe fuori dalla porta, un tappeto spesso sul pavimento della stanza, fuori dalla finestra, la pioggia che cadeva e nella stanza, luce, dolcezza e allegria. Poi la luce spenta e questo eccitante, con le lenzuola lisce, il letto comodo, con la sensazione di essere tornati a casa, con la sensazione di non essere più soli, svegliandosi nella notte per trovare l'altro lì accanto e non lontano. Tutte le altre cose erano irreali. Ci addormentavamo quando eravamo stanchi e se ci svegliavamo, si svegliava anche l'altro e così non eravamo più soli. Spesso un uomo desidera essere solo e anche una ragazza desidera essere sola. E se si amano sono gelosi di questo, l'uno per l'altro. Ma io posso dire sinceramente che per noi non è mai stato così. Potevamo sentirci soli mentre eravamo insieme, soli contro gli altri. Mi è capitato così soltanto una volta. Sono stato solo mentre ero con molte ragazze e questo è il modo in cui si può essere più soli. Ma noi non eravamo mai soli e non avevamo mai paura quando eravamo insieme. So che la notte non è come il giorno, che tutte le cose sono diverse, che le cose della notte non si possono spiegare nel giorno perché allora non esistono. E la notte può essere un momento terribile per la gente sola, quando la loro solitudine è incominciata. Ma con Catherine non c'era quasi differenza nella notte, tranne che era anche meglio. Se la gente porta tanto coraggio in questo mondo, il mondo deve ucciderla per spezzarla, così naturalmente la uccide. Il mondo spezza tutti quanti, e poi molti sono forti nei punti spezzati, ma quelli che non spezza li uccide. Uccide imparzialmente i molto buoni, e i molto gentili, e i molto coraggiosi. Se non siete fra questi, potete essere certi che ucciderà anche voi, ma non avrà una particolare premura. Ricordo quando mi svegliai quel mattino. Catherine dormiva e la luce del sole entrava dalla finestra. Non pioveva più e scesi dal letto e attraversai la stanza fino alla finestra. Giù c'erano i giardini, ora spogli ma regolari e belli, i sentieri di ghiaia, gli alberi, il muro di pietra sul lago e il lago nella luce del sole con le montagne in fondo. Rimasi alla finestra a guardare fuori e quando mi voltai vidi che Catherine era sveglia e mi guardava. «Come stai, caro?» disse. «Non è una bella giornata». «Come stai?» «Sto benissimo». «Che bella notte. Vuoi fare colazione?» Voleva fare colazione. Lo volevo anch'io e ce la portarono a letto col sole di novembre che entrava dalla finestra e il vassoio della colazione sul mio grembo. «Non vuoi il giornale? Volevi sempre il giornale in ospedale?» «No», dissi, «non voglio più il giornale». «È stato così brutto che non vuoi neanche leggere ciò che ne dicono?» «Non voglio leggere quello che ne dicono. Vorrei essere stata con te per sapere anch'io com'è stato. Te lo racconterò, se riuscirò a capirlo. Ma non ti arrestano se ti prendono senza uniforme. Probabilmente mi fucilano. Allora non bisogna stare qui, andiamo via da questo paese. Avevo pensato qualcosa del genere. Andiamo via, caro, non dobbiamo correre rischi stupidi. Dimmi come hai fatto ad arrivare da Mestre a Milano?» «Sono venuto in treno, ero in uniforme allora. Non c'era pericolo?» «No, non molto. Avevo un vecchio foglio di viaggio, ci ho messo sopra le date a Mestre. Caro, qui possono arrestarti da un momento all'altro, non voglio, è troppo stupido fare una cosa di questo genere. Cosa faremmo se ti prendessero? Non pensiamoci. Sono stanco di pensare. Che cosa faresti se venissero ad arrestarti?» «Li ammazzo. Vedi come sei stupido, non ti lascerò uscire dall'albergo finché non partiremo. E dove andiamo? Per favore, non fare così, caro. Andremo dove vuoi, ma per favore trova un posto per andare via subito. La Svizzera è in fondo al lago. Si potrebbe andare lì. Sarà magnifico». Fuori scendevano le nuvole e il lago si incupiva. «Vorrei che non dovessimo sempre vivere come dei criminali», dissi. «Caro, non fare così. Non hai vissuto molto tempo come un criminale. Non viviamo mai come criminali. Avremo una vita così bella. Mi sento un criminale. Ho disertato». «Caro, ti prego, sì, ragionevole, non hai disertato. Era solo l'esercito italiano». Mi misi a ridere. «Sei straordinaria. Torniamo a letto. Ci sta così bene a letto». Un momento dopo Catherine disse: «Ti senti ancora come un criminale?» «No», dissi, «non quando sono con te». «Sei così stupido», disse, «ma io baderò a te. Non è splendido, caro, che non abbia nessuna nausea al mattino? È magnifico. Tu non apprezzi tua moglie, ma non importa. Ti porterò in un posto dove non possono arrestarti e allora vivremo così bene. Andiamo via subito. Sì, caro, andrò dovunque, in qualunque momento tu lo voglia. Non pensiamo a niente. Va bene».